Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. La voce dell'innovazione, sono le 16:33. Io sono Luca Tremolada. Qui con me in studio c'è Cristina Tagliabue. Buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno. Stai spegnendo il cellulare? Infatti, sì. Mi hai beccato in castagna. Ti ho beccato in castagna. Dire. Titolo della puntata: Crossing Art. Arti che. Cioè, si incrocia, che no? Si incrocia. Siamo in una crocevia un po' strana, no? Il 2010, arti multimediali, musica insieme ad arte digitale. Sì, insomma, avremo artisti visuali, un artista visuale, un artista collettivo, poi avremo un ragionamento sui grandi eventi live, Star Wars in concerto, insomma, tante cose, ma prima le news e gli appuntamenti scritti da Cristina Tagliabue. Oggi alle ore 18 presso l'auditorium della RAI di Palermo, Aurelio Pesse e Tommaso Romano presentano il volume multimediale di Antonio Castelli, Opere. Il CD raccoglie racconti in dialetto trasmessi radiofonicamente dalla RAI il 17 maggio del 1978 e il discorso del fraterno amico Leonardo Sciascia, pronunciato il 18 febbraio 1986 durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Cefalù a Castelli. Sempre oggi alle 22 a Milano, presso il locale Ragù, si terrà il concerto reading Parole suonate, con il DJ Valerio Millefoglie, il poeta d'or metropolitano Vincenzo Costantino Cinaschi e il musicista Francesco Arcuri. L'ingresso è gratuito, Viale Monza 140, Milano. Fabio De Luigi, Diego Abbattantuono, Fabrizio Bentivoglio, Margherita Bui e Carla Signoris sono i protagonisti di Happy Family, la storia di due famiglie un po' sopra le righe, in evoluzione continua e in equilibrio precario, i cui destini si incrociano a causa dei figli sedicenni caparbiamente decisi a sposarsi. La sceneggiatura di Alessandro Genovesi è stata finalista al premio Franco Solinas 2008. È nato alle Molinette di Torino il primo ambulatorio per dipendenti cronici da social network, che vuole aiutare chi è vittima delle nuove dipendenze, ovvero quelle senza droga, come spiega Donato Munno, direttore del Dipartimento di Psicologia Clinica. L'ambulatorio rientra nei progetti del Dipartimento di Neuroscienze e ha l'obiettivo di fare chiarezza sulle varie forme di distaccamento dalla realtà, anche se questo fenomeno non è ancora classificato come vera e propria patologia psichiatrica. Ma quindi perché tu, cioè questa notizia l'hai messa perché tu senti di essere dipendente da Facebook? Ebbene sì. No, io... ma di Serena. Beh Luca, sì, devo ammetterlo nel quanto senso che io... Quanto ci stai? No, ma ci sto sempre, cioè non so quanto tempo esattamente, ma comunque posso dire di essere always on con Facebook. Cioè non c'è la modica quantità. No, quindi, lo no. Guardo alla sera prima di andare a letto, mi sveglio la mattina e comunque lo guardo, poi decido di non scriverci, però insomma ho 2100 amici e... Come dire, mi piace in realtà, fa parte della mia vita, sono troppo virtuale, forse sto diventando 2100 troppo... amici? Sì, ammazza. 2100 amici, e non perché li ho cercati io, eh. No, no, ma non lo metto in dubbio, infatti sono ammirato. Comunque, noi siamo qui in compagnia di Alessandro Zanier, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, noi l'abbiamo conosciuto una settimana fa, giusta, 7 giorni fa, e io l'avevo presentato come 8DX, ma 8DX in realtà è il nome del progetto. Musicale, sì. Non solo musicale, da quello che in abbiamo capito. In questo caso sì, un po' sta unendo le due cose. Perché tu, insomma, come diceva il titolo della puntata, sei all'incrocio di un po' tante cose. Vediamo di capirne pochino. Anzi, però, fermi un attimo, abbiamo preparato anche una scheda, per cui noi lanciamo la scheda e poi torniamo con... Alessandro Zanier, sì. Alias 8DX. Esatto. Sbagliato. dopo semplificheremo. Ottodix è lo pseudonimo del progetto solista di Alessandro Zanier, artista visivo e musicista, arrangiatore e autore, classe 1971 e diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Il progetto musicale Ottodix, crocevia tra synth-pop di ispirazione wave elettronica e musica d'autore tipo Golf Rap, Bjork, Massive Attack, Depeche Mode e Garbo, nasce verso la fine degli anni 90. Alessandro Zanier, come artista visivo, ha realizzato alcune mostre in Italia e all'estero. L'installazione Fear Project e I Man fino al sogno di un avatar, al Festival della Filosofia di Modena, dove per l'occasione Zanier ha presentato il concept album Le Notti di Oz, sintesi tra arti visive, musica pop, teatro e fiaba, dedicato ai mondi e ai rapporti virtuali, oltre che ispirato ai film d'avanguardia dei primi Novecento. Allora, insomma, moltissime cose. Ma posso dire Luca? Devi, cioè devo assolutamente raccontarti la copertina di questo album. Allora, credo che ci sia il nostro Alessandro Zannier molto truccato, con una specie di super cuffia d'argento, con una mela stile Apple al contrario, che lui prima mi ha detto essere in realtà un cuore morso. Allora, voglio dire, qui, come dire, guardi una copertina e dici vabbè, c'è dietro un mondo, nel senso che poi davanti, oltre al fatto di vedere questo personaggio, vedi una specie di sfera di cristallo con dentro un touchscreen. Ma sei inquieta, con dietro, sei inquieta. No, i grattacieli, ma insomma è veramente complesso descrivere cosa vuol dire fare arte oggi, però questo ti assicuro che è un CD alla fine, allora vorrei capire, ma cosa c'è dentro? C'è di tutto, nel senso, però astratti, nel senso che c'è una prima lettura molto più semplice, poi è fatto appositamente per durare un po' nel tempo, ecco, quindi andare a scoprire dei suoni diversi, dei significati, delle citazioni. Allora, partiamo, se sei d'accordo, prendiamola da un punto di vista, cioè partiamo da Sogno di un Avatar. Sì, ok, io Sogno di un Avatar è un po' il sottotitolo di quest'opera, ed è stato il punto un po' di arrivo artistico per quanto riguarda le arti visive di questo progetto, che nasce come progetto musicale e come commento sonoro ad un testo teatrale che ho scritto, che comunque è anche riportato nel booklet della copertina del CD che hai in mano in questo momento, e è confluito in una mostra d'arte abbastanza multimediale, usando questo termine abusato, ecco, che abbiamo presentato, come ha detto la scheda, al Festival della Filosofia di Modena. Allora, ricordiamo innanzitutto gli appuntamenti. Tu domani dove sei? Anzi, io domani sono a Settimo Milanese con il resto della band, perché 8Dix poi diventa anche una band dal vivo, e sono qui in studio anche con Mauro Franceschini alle percussioni. E domani sera siamo a Settimo Milanese al Palazzo Granaio, e la serata inizierà attorno alle 23. Ok, allora, quindi quello che è chiaro è che suonano. Quantomeno. Allora, abbiamo capito questo la qua c'è. Poi io ho visto su YouTube anche che insomma ci sono filmati che ti riguardano, videoclip altro, così, sì. Per cui diamo anche due o tre riferimenti. Sì. E poi c'è insomma la fiaba, c'è la sceneggiatura, c'è la mostra, ma diciamo che attorno al progetto musicale sto facendo confluire tutte quelle che sono stati i miei percorsi di artista visivo, per creare una situazione, da un concept. La domanda è: una scappatoia commerciale quella della musica? Perché poi tra l'altro, cioè, oggi parlare di scappatoia, infatti anche Cristina mi guarda male, no, però cioè, nel senso, diventa un prodotto alla fine della fiera. Sì, perché in realtà è un prodotto, però essendo che la crisi c'è ovunque, in realtà proprio può essere un'arma a doppio taglio. Un progetto del genere può diventare ancora più complesso da essere capito al volo e spiegato, quindi in realtà lo trovo intellettualmente molto più onesto e contemporaneo come tipo di atteggiamento per un artista, perché adesso essere artista, a volte molti abusano di questa parola e diventano tuttologi, no? Però in realtà comunque un artista contemporaneo deve un po' sapersi occupare un po' di tutto, secondo me, di capire un po'. Ma come guadagna comunque Alessandro poi alla fine? Cioè gli introiti, visto che dalla musica non arrivano. Solito questa domanda facevo sempre io, cioè, esatto, invece vedi te l'ho survata. Di solito oggi c'era un gioco di ruoli, per cui facevo quello in giacca, diciamo, e cravatta che chiede. Diciamo che bisogna vivere un po' di espedienti, e soprattutto questi progetti vengono finanziati da persone che ci credono, che lo fanno per poche lire, non dormono la notte, si consumano, fanno un altro lavoro. Quindi non esiste un mecenatismo, non esiste un... Ma dipende, può essere diciamo un colpo di follia di qualcuno che ha un po' di interessi nel mondo dell'arte e che ha i mezzi di farlo, però è sempre più raro, ecco. Beh, però posso dire che comunque a questo progetto artistico hanno partecipato degli artisti come Soerba, e lo dico non soltanto perché sono monzese, loro sono di Monza, Garbo, Madaschi di Africa Unite, e inoltre come dire, un artista del 3D come Marco Marchesi, Bruce Sterling ha elogiato il progetto, quindi insomma parliamo di... Sì, pare di sì, pare che abbia visto più che altro il singolo tratto da quest'album, che era I Man, si intitola, era proprio parlavamo della mela di Apple. La copertina del singolo era la mela con la grafica dell'Apple. Non ti hanno citato. Non sono così famoso per essere citato. Attenzione, magari domani succede qualcosa. No, in realtà è stata una cosa elaborata, rielaborata. Era suggerita un po'. Andy Warhol ci ha fatto una carriera sulle citazioni delle grandi marche. Ecco, quindi è un'operazione artistica. Spero il modello delle zuppe Campbell. Esatto, le Coca-Cola. Ecco, io ho solo una domanda prima di passare al secondo ospite, che è quella, insomma, qual è. Noi in queste puntate, durante questa trasmissione, abbiamo parlato molto di remix, cioè di cultura del remix, del campionamento, dalla musica hip hop alle arti digitali. Mi sembra che nel tuo caso non ci sia nulla di tutto ciò, cioè tu non riutilizzi cose, no. Suoni. Prevalentemente lavoro molto con l'elettronica, però tendo a manipolare i suoni, a creare una ricerca personale. Tra l'altro poi un disco misto tra l'elettronica e ci sono delle incursioni nella musica sinfonica, ci sono un po' un mondo particolare, può essere vicino a Björk, per dire le ultime cose di Björk, però è anche pop, è più fruibile, diciamo, a più strati. Tra l'altro abbiamo ascoltato settimana scorsa un pezzettino del singolo, sì. No? In realtà poi non abbiamo fatto in tempo a parlare con lui, era in zona Cesarini. Ecco, no? Queste opere d'arte costruite sui marchi tecnologici, però interessante, no? Qualcuno che usano che poi le parole familiari di un mondo che vive tanto su internet. Invece passiamo da internet invece al live, agli eventi. Noi abbiamo in collegamento Claudio Trotta, produttore, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Ecco, allora noi abbiamo con di lei una scheda che però mandiamo subito dopo il traffico e introduciamo anche l'ultimo degli eventi che ha portato qui in Italia. Ta-ta-ra-ta-ta-ra. La mandiamo dopo, non dovevi fare tu, la vuoi iniziare. Va bene. Nova Lab 24. Allora, questo doveva essere il tatarata di Cristina Tagliabue, che giustamente ci segnalano che invece era Indiana Jones. Perché ho sbagliato. Va bene, no, ma scusatemi. Succede. Claudio Trotta la perdona, sì. Certamente, ci mancherebbe altro. Allora, mandiamo la scheda che ha preparato Cristina Tagliabue, dove questo non ci sarà Indiana Jones. Speriamo. E poi torniamo a parlare con il produttore. In 30 anni di attività, celebrati nel 2009, Claudio Trotta con Barley Arts organizza e promuove migliaia di concerti di artisti italiani ed internazionali, fra i quali quelli di AC/DC, Queen, Kiss, Cure, Bruce Springsteen, Tom Waits, Frank Zappa e Lenny Kravitz. Soltanto quest'anno ha portato in Italia altre grandi produzioni internazionali, Walking with Dinosauro e Star Wars in Concert, che domani e dopo sarà al Forum di Assago di Milano. Intanto Claudio Trotta, proprio in corrispondenza del trentennale della sua azienda, ha realizzato un altro grande desiderio: misurarsi con un progetto completamente nuovo per lui, la produzione di un musical. Non poteva trattarsi che di We Will Rock You, il musical ideato dai Queen, da anni un successo clamoroso nella Swinging London. Allora, quindi l'abbiamo capito, domani tre concerti esclusivi che insomma suoneranno la colonna sonora di Star Wars, però insomma un po' il suo curriculum ci racconta e ci dice che qualcosa sta cambiando nel live, cioè da Tom Waits a Star Wars, che sta succedendo? Ma no, sinceramente sta succedendo semplicemente che gli orizzonti si aprono sempre di più e questo devo dire è un po' quello che abbiamo fatto per 30 anni, abbiamo fatto di tutto e di più, dalle cose assolutamente di super nicchia a Campovolo con Ligabue con 180.000 persone e 4 palchi. Star Wars come Walking with Dinosaurs, come We Will Rock You fanno parte di un allargamento che abbiamo fatto, devo dire, molto rapidamente, molto velocemente e mi sembra anche con una discreta qualità. Nel corso dell'ultimo anno, cioè, abbiamo deciso che oltre a dei concerti di qualsiasi genere con artisti di qualsiasi nazionalità, ci interessava anche allargare un pochettino il raggio dell'entertainment, ai musical, ai family show e a questo show multimediale stranissimo e di difficile comunicazione, perché è difficile spiegare che cos'è Star Wars in Concert, che domani sera, sabato pomeriggio e sabato sera, chi vedrà potrà vedere e potrà goderne. Ecco, dottor Trotta, in realtà c'è George Lucas addirittura che ha commentato questo spettacolo, perché si tratta della, mi scusi la pronuncia, Royal Philharmonic Concert Orchestra, e in più delle immagini della saga, no? Sì, beh, quindi no, dunque, uno spettacolo anche qui un po' multimediale. Beh, no, dunque, spieghiamolo brevemente. Innanzitutto lo spettacolo ha proprio, come dire, l'imprimatur di George Lucas, che è l'ideatore di tutta la saga. Lo spettacolo consiste nel fatto che al forum, il pubblico che arriverà, dove c'è generalmente il palco, un'immensa scena comprendente il palco con un'orchestra, che è la Royal Philharmonic Orchestra, e un coro di una sessantina di elementi, un mega schermo di 20 metri per 8 in alta definizione, ai lati degli altri schermi moltissime luci e un narratore sul palco, che è Daniels, che è l'unico attore che ha fatto tutta la saga Star Wars, che fra una canzone e l'altra spiegherà in inglese, tradotto simultaneamente in italiano sugli schermi, un pochettino quello che sta succedendo, cioè cosa succede, che si vedranno quindi delle scene in una maniera assolutamente come nessuno ha mai visto prima, perché al cinema così bene non si è visto, delle scene dai 6 film di Star Wars con la musica suonata dal vivo dei film. Quindi ecco, direi, ecco. Mi spieghi una cosa, perché anche camminare con il dinosauro è stato un evento straordinario, no? Sì. Dato mio nipote ha visto questi enormi dinosauri robotici, sì, esatto, che però in un certo senso cambiano anche la modalità con cui lo spettatore si misura con questi spettacoli. Cioè, non mi dica se è un'impressione, ma è un punto, sì, di vista chiaramente molto laterale il mio, è come se il mondo della star, cioè il mondo televisivo dove c'è una star da vedere, da guardare, poi si stava distanti, è in un certo senso finito, cioè conta più l'evento del personaggio, conta più l'esperienza. Ma io non lo so se è questo, io quello che so è che indiscutibilmente ci sono delle possibilità tecnologiche avanzatissime e che sono state utilizzate a piene mani dal cinema, sono state utilizzate a piene mani per esempio nel mondo dei videogiochi, e che magari nello spettacolo dal vivo fino ad ora si era visto solo nei grandi show, negli stadi, che ne so, degli U2 piuttosto che dei Pink Floyd, piuttosto che di Madonna o di altri. Questi spettacoli in effetti sono un po' un trade union fra quello che è la dimensione del rock, della musica dal vivo, e quello che è la dimensione di un teatro moderno che utilizza tutte le tecnologie possibili e che gioca con tutti i mezzi possibili. Nel piano dei dinosauri, fra l'altro, uno spettacolo a mio parere straordinario, cioè io l'ho visto 7 volte, che lo vedevo mi scoprivo con un sorriso ebete dall'inizio alla fine, stampato in faccia, perché proprio la meraviglia di vedere questi dinosauri. Quando è che tornerà in Italia? Che questo fino al 2012 non si vedrà sicuramente. Nel caso di Star Wars qui la cosa è ancora diversa, perché ripeto c'è mi stavo dimenticando, oltre a quello descritto, in mezzo alla gente ci saranno un po' di persone che gireranno vestite come gli attori, come i protagonisti di Star Wars, e poi ci sarà una bellissima mostra, una bellissima esibizione di materiali mai visti prima, oltre che di classici, cioè oggetti di scena, costumi, accessori originali. Sì, sì, lo stavamo commentando. Cioè, modelli, storyboard, illustrazioni. Perfetto, quindi ricordiamo, l'appuntamento è domani e dopodomani. Stavi dicendoci qualche cosa, Zanier? Sì, no, perché stavo pensando a questo tipo di spettacolo che mi sembra un po' vada a chiudere un concetto che è quello, è molto, molto futuribile, futuristico, ultra moderno, però contemporaneamente chiude un po' il cerchio con quegli spettacoli dei primi del Novecento, quando al cinema muto si accostava la musica dal vivo, ed è un po' il tripudio di questo tipo di spettacolo che c'era originariamente di connubio tra immagine e musica. Non ci stiamo quindi inventando nulla, ci sto no, dicendo. Però lo stiamo facendo molto meglio, ecco. Stiamo dando spazio a dei sogni che avevamo da 100 anni. Va bene, ci stanno sfumando. Io ringrazio Claudio Trotta, ringrazio Alessandro Zani, ringrazio Cristina Tagliabue. Ciao, alla prossima. L'appuntamento è domani alle 16:30. Nova Lab 24.